Siamo insieme a Gianluca Farinelli, direttore del festival Il Cinema Ritrovato. Siamo alla presentazione della 36esima edizione. Quanti e quali saranno gli appuntamenti di quest'anno? Beh, è un festival enorme con 400 titoli, e infatti siamo quattro direttori per riuscire a gestire un festival così vasto. Io lo dirigo assieme a Cecilia Cenciarelli, a Ezan Kosbakht e Marianne Levinsky. È un festival pazzo, unico, un festival in cui si può vedere la stagione 1902, cioè quella di 120 anni fa, ma anche il 1922, quindi solo 100 anni fa, ed è una stagione molto importante, quella del 22, perché per esempio è la stagione nella quale nasce il documentario d'autore, nasce col film di Flaherty Nanook del Nord, o nasce anche il primo film horror Nosferatu, e poi è anche l'anno in cui nasce un formato particolare, che è il primo formato amatoriale, il 9.5, e quindi mostreremo tanti film che proietteremo anche con il sistema 9.5, e ci sarà un importante archivio cittadino, quello di Home Movies, che porterà alcuni film 9.5 girati proprio nella nostra Bologna. E poi c'è il mondo, c'è la Germania tra il 1930 e il 1932, quando il cinema sonoro tedesco è forse quello più tecnologicamente avanzato, e quindi ci sono tante commedie musicali di cui forse i cinefili ricordano soprattutto L'Angelo Azzurro, ma in realtà L'Angelo Azzurro era solo alla punta dell'iceberg dell'esperienza di Weimar degli anni 20, dei grandi cabaret. Ecco, Cabaret è un altro film che ci ha raccontato quel momento, e quindi questi artisti, questi cantanti, attori, attrici, sceneggiatori, parolieri, musicisti arrivano al cinema dal 30 al 32 e fanno tantissimi capolavori che verranno letteralmente rasi al suolo. Molti di loro moriranno, molti di loro saranno portati nei campi di concentramento, e dalla fine del 32 questa esperienza scompare perché Hitler la cancella, così come si è persa memoria del cinema jugoslavo, che pure è stato un cinema negli anni 50, 60 e primi 70 molto molto importante, che vinceva normalmente nei grandi festival. Accanto a queste rassegne più particolari, e che interesseranno soprattutto il pubblico degli specialisti, c'è però per esempio Sophia Loren, ci sono i grandi restauri con capolavori assoluti che in parte mostreremo in Piazza Maggiore. Quest'anno abbiamo molto aumentato le serate in Piazza Maggiore, saranno addirittura 22, ma molti verranno presentati invece soltanto al Cinema Lumiere. Penso per esempio a Nostalgia di Tarkovsky, penso a Ludwig, uno dei capolavori di Visconti, che è ricostruito nella sua versione di 4 ore, penso a uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, che è La Règle du jeu di Jean Renoir. E poi ci saranno grandi serate in piazza con grandi ospiti. Apriamo con la Carmen di Rosi, presentata dalla figlia Carolina e da Nicolas Seydoux. Il giorno dopo abbiamo Stefania Sandrelli, che presenterà Il Conformista, e poi avremo Alice Rohrwacher, che ci porterà le sue Pupille, questo mediometraggio che ha realizzato a Bologna, sarà un'anteprima italiana, e poi molti film muti e con gli accompagnamenti musicali dal vivo, e poi Olive Harrison, che ci presenterà Beatles Get Back, e poi Wes Anderson con l'ultimo spettacolo, e forse la serata più incredibile, che sarà quella di John Landis, che presenterà sul palco di Piazza Maggiore The Blues Brothers. Chiedo di ricordare le modalità di partecipazione. Sarà possibile acquistare alcuni abbonamenti? Sì, certo, sì, ci si accredita al festival e ci sono molte offerte per il pubblico degli studenti, per prezzi anche molto popolari, e poi con l'accredito si può andare a tutte le proiezioni prenotandosi. Grazie mille a Gianluca Farinelli. Grazie a voi.